Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e buona domenica, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con i settimanali, con i periodici in genere, diciamo. Voglio cominciare con una indicazione molto pratica, anche se forse non tutti si potranno fidare ciecamente di questa cosa. Ho scoperto, sfogliando Two Style, che è un settimanale appunto femminile, che questo periodo fino al 14 di febbraio è il più propizio per trovare la anima gemella se siete single, se siete da soli. La scoperta viene dalla rubrica di Maria Elena Viola, che peraltro è vice direttore di Two Style, e la sua rubrica si chiama Viva le donne. Dice: l'anima gemella si cerca online, e ci rivela che anche Assange, ormai tutti sappiamo chi è, il patron di Wikileaks, attualmente diciamo in un brutto frangente giudiziario e nonché politico e diplomatico, beh, anche lui ha cercato l'anima gemella online. Adesso però non si dice più cercare l'anima gemella, non si dice più cuori solitari, si dice con una parola inglese, la parola è dating, sta a indicare appunto questi siti dove le persone sole si possono cercare, possono mettersi in contatto. Ma vi leggo proprio l'articolo di Maria Elena Viola, che dice che fine hanno fatto i single, non se ne parla più, eppure c'è stato un tempo in cui riempivano pagine e pagine di giornale, sollecitavano le statistiche, tenevano occupate le meglio menti creative di aziende e agenzie di pubblicità che erano chiamate a sfornare per loro prodotti e servizi ad hoc. Io ricordo ancora una conferenza stampa molto affollata in cui si decantavano i pregi di nuovi surgelati in monoporzione, ideati appunto per i senza famiglia angustiati dagli sprechi alimentari. Si favoleggiava allora di future incredibili imprelibatezze, da insalate fantasia, lasagne doppia mozzarella, eccetera eccetera, e tutto per questa moderna ed emancipatissima categoria sociale. Oggi i single, invece, spiega Elena Viola, non sono più un fenomeno, sono solo gente senza un partner. Quindi sono stati surclassati poi da altri fenomeni più up to date, più alla moda appunto, tipo i gay che fanno outing, le madri nonne. E quindi i single, è sempre la diagnosi di Maria Elena Viola, sono tornati in qualche modo quello che in fondo sono sempre stati, cioè zitelle e scapoli. Beh, questo non è un male, perché anche i bidelli, dice, in fondo sono sempre stati bidelli, anche quando li abbiamo chiamati collaboratori scolastici e così via. Appunto, gli operatori ecologici sono poi sempre rimasti degli spazzini, e questo non è assolutamente offensivo, non dobbiamo avere, scrive, paura delle parole. Allora, però, se i single esistono ancora, ci avverte che questo è il momento più propizio, la fase più propizia dell'anno, perché possano invece non essere più tali se così decidono. Se si cercano appunto non questi single, non al supermercato come spesso si è scritto, o dopo le 21, oppure in palestra, oppure, dice, al corso di ceramica, che è stato un altro miracoloso luogo di caccia almeno fino alla metà degli anni 90, si cercano invece su internet. C'è stata una ricerca condotta dalla abituale università, l'abituale è una chiosa mia, da due ricercatori dell'università di Stanford e del City College di New York. Hanno consultato i vari siti di dating online, appunto dating, cioè la ricerca, una volta si sarebbe detto per cuori solitari, e sono questi siti al terzo posto tra le cause di colpo di fulmine tra i perfetti sconosciuti. Al primo posto però resta sempre la presentazione da parte degli amici, al secondo l'incontro casuale che si può fare al bar o al ristorante. Però si conta che solo in America 20 milioni di persone abbiano trovato proprio su internet, su questi siti, l'anima gemella. Il periodo di ricerca più spasmodica è proprio quello che va dall'inizio dell'anno fino a San Valentino. Perché? Perché è il momento dei buoni propositi, è il momento dell'ottimismo, e quindi uno si sente più portato e fiducioso nei confronti della vita, sembra di capire, e quindi si mette anche più a disposizione. Mi ha chiesto, perplessa, qui Maria Elena Viola introduce un dettaglio personale: quando io ho proposto questo argomento per questa rubrica, il mio direttore mi ha chiesto se cercare l'amore in rete non è un po' da diciamo sfortunati, ma la parola non è esattamente questa. Dice: no, sta proprio qui la novità, che un tempo alle agenzie matrimoniali poteva rivolgersi magari chi era alla frutta, signore e signori attempati che erano ormai tagliati un po' fuori dalle frecciate di Cupido per raggiunti limiti di età. Oggi, con questa versione digitale, la scorciatoia degli incontri facilitati attira proprio tutti. persino Julian Assange, lui, la mente diabolica di Wikileaks, di cui si può dire qualsiasi cosa, a meno che sia uno avete capito la parola. Fino al 2006, appunto, su uno di questi siti di dating, che si chiama OkCupid, compariva il suo profilo. Si descriveva come persona appassionata alla ricerca di una sirena per amore, convivenza, figli e per cospirare criminalmente. Io non so se questo sia vero o se sia una ricostruzione, una specie di contrappasso per chi ha messo in rete un sacco di segreti. Un piccolo segreto di Assange finito in rete è stato invece ripescato, appunto, e riproposto su TwoStyle. Dice: questa informazione forse poteva anche tornare utile a qualche single magari che è appassionato di internet e lavorava alla CIA. Allora, visto che abbiamo cominciato a parlare di internet, restiamo un po' in questo argomento, ne abbiamo parlato in modo meno serio magari del solito, appunto parlando di incontri per cuori solitari, di siti di dating, come si dice adesso. Su Vanity Fair c'è una rassegna interessante dei numeri mostruosi che caratterizzano Facebook, appunto questo social network, questo modo di incontrarsi in rete. Non c'entra con i cuori solitari, però dà occasione appunto di ritrovare persone, di stringere appunto anche nuovi rapporti, eventualmente può anche essere chiaramente utilizzato per fare nuove conoscenze. Alcuni numeri vengono riassunti da una tabella appunto su Vanity Fair, che ci avvisano che Facebook vale attualmente 50 miliardi di dollari. Questa è la quotazione stimata, perché non è la società non è quotata espressamente sul mercato di New York. Questa è la cifra stimata dopo i nuovi investimenti sul social network. Il patrimonio personale di Zuckerberg è passato tra l'altro da 7 a 14 miliardi di dollari, quindi lui è entrato nella classifica dei 15 uomini più ricchi del pianeta. Altri però scrivono appunto su Vanity Fair i veri numeri del successo di Facebook, come i messaggi scambiati si calcola che siano 5 milioni ogni 20 minuti e i commenti che siano più di 10 milioni sempre ogni 20 minuti. E ogni 20 minuti su Facebook, tra l'altro, ci sarebbero 1 milione di link, cioè di segnalazioni, di legami, di rimandi condivisi, 1.320.000 foto taggate, quindi diciamo agganciate al social network. Per chi non è di questo club, devo dire ormai molto vasto, magari questi termini sono un po' difficili da comprendere. Ci sono ogni 20 minuti 2.720.000 foto che vengono caricate e 10 milioni, più di 10 milioni di commenti. Tra l'altro, nel corso del 2010 si calcola che più di 43 milioni, quasi 44 milioni di persone, utenti naturalmente di Facebook, abbiano cambiato il loro status, lo abbiano trasformato in single. Quindi per questo vi rimandiamo poi all'altro articolo di cui vi abbiamo parlato prima. Alcuni lo abbiano cambiato, 3 milioni circa, in un generico: il mio status è complicato, e quindi questo lascia intendere una qualche appunto complicazione sentimentale non semplice da sciogliere. E 36 milioni, quindi poco sotto quelli che dichiarano di essersi separati, di essere tornati singoli, invece in 36 milioni hanno cambiato il loro status e lo hanno modificato in sposato. Se ci aggiungiamo i 5 milioni di quelli che si sono dichiarati fidanzati, sono mutato il loro stato civile, come si direbbe all'anagrafe, in fidanzato, raggiungiamo quasi la parità con invece quelli che sono rimasti da soli. Vorrei, come dire, salire un po' in serietà con un lavoro che viene presentato dall'Espresso, e sempre a proposito di internet. Non che le cose di cui abbiamo parlato non siano serie, sono serissime, specialmente per i conti del signor Zuckerberg, che evidentemente ha trovato una chiave di successo senza precedenti, almeno in questo recente passato. Ma dicevo, per capire un po' seriamente, ma noi effettivamente poi cosa ci facciamo in internet, cosa ci facciamo per classi di età, perché sull'Espresso di questa settimana C'è un bell'articolo di Alessandro Longo che si chiama Ciascuno il suo web, dove tra l'altro si ospita, vi rimando poi all'articolo che è molto dettagliato, si occupa ad esempio anche dell'uso che fanno le persone più avanti con gli anni, gli over 50, gli over 60 e così via, su internet, perché spesso noi pensiamo a internet come a un oggetto riservato chissà perché ai giovani o magari solo a chi se ne deve occupare per lavoro, ma c'è un utilizzo anche assolutamente per il tempo libero da parte appunto delle persone non più così giovani. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Allora, stavamo parlando di cosa facciamo effettivamente in internet. Lo rivela l'Espresso con una lunga tabella in cui suddivide le attività, il tipo di attività svolta per classi di età, cioè cosa fanno quelli che hanno tra 6 e 10 anni fino a cosa fanno quelli che hanno più di 75 anni quando usano internet. Il campione è stato condotto su persone che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. Questo avverte appunto la tabella. Vabbè, non sorprendentemente tra 6 e 10 anni fino ai 14 anni l'attività più praticata è quella di giocare, scaricare giochi, scaricare immagini, scaricare musica, però appunto nella fascia già tra 11 e 14 comincia ad essere importante l'uso di internet per apprendere, questa è la definizione, quindi per motivi legati alla scuola o anche solo per trovare informazioni. Questa percentuale appunto dell'apprendimento risulta la maggiore attività tra dagli 11 anni fino ai 24 anni, cioè, decresce appunto col finire più o meno del percorso universitario, perché dai 25 anni in avanti risulta sempre un'attività importante, ma non così importante. Cercare informazioni su merci e servizi è invece l'attività preferita quando ad andare su internet sono le persone che hanno tra 20 anni e diciamo fino ai 60-65 anni. È sicuramente una delle attività privilegiate, se non la privilegiata, via via che si sale con l'età, cioè quando si perde un po' la concorrenza della necessità di apprendere. Allora si va invece a cercare informazioni su qualcosa che si vuole comprare o su qualche servizio a cui si è interessati. È naturalmente importante scaricare musica fino all'età, diciamo, tra i 20 e i 24 anni, ma probabilmente, visto la curva, se considerate proprio la curva dai 6 anni fino ai 65, si vede che è in realtà un'onda che cresce con le generazioni più giovani, quindi probabilmente andrà a spostarsi anche via via che queste generazioni vanno avanti negli anni. Non è neanche da trascurare appunto la possibilità di scaricare software o comunque di fare del download. È un'attività che viene abbastanza praticata nella fascia di età, specialmente che sta tra i 18 e i 25 anni. E poi ci sono gli altri usi: fare un corso online, sottoscrivere abbonamenti, usare le aste online, che è un'attività non così ancora praticata, che però insomma è significativamente frequentata almeno nel gruppo che va dai 20 anni fino ai 45 anni. Nelle altre parti, nelle altre punte appunto di età è meno presente. Vi dicevo, prima di fermarci per le informazioni sul traffico, del ruolo importante che le persone non più giovani, non giovanissime, stanno avendo sempre più su internet, e scrive infatti appunto Alessandro Longo in questo articolo sull'Espresso: un'attenzione a parte meritano gli anziani che si stanno avvicinando a internet. Sono loro infatti la vera forza nuova di questo fenomeno, perché stanno adottando con entusiasmo tecnologie che appaiono fantascienza. In 10 anni di corsi, spiega appunto Luisa Toeschi, che dirige una scuola gratuita di nuove tecnologie internet, in 10 anni di corsi abbiamo diplomato 55.000 alunni over 50, mi verrebbe da correggere che anziani non sono, però poi precisa alcuni anche di 90 anni, e lì forse effettivamente possiamo accettare questa definizione. È attiva questa sua attività in 7 città italiane, pensa di espandersi. Perché? Perché stanno assistendo a un boom di prenotazioni, specialmente per, guarda un po', i corsi di Facebook, per per il quale sull'onda delle richieste abbiamo anche dovuto aggiungere dei corsi serali, quindi ci sono delle persone che vanno a scuola per farsi spiegare come usare Facebook, come andare su Facebook. Che ci fanno con Facebook le persone, diciamo, non giovanissime? Beh, vanno alla ricerca di compagni di scuola, ma anche di nuove amicizie, e talvolta invece lo usano anche per controllare quello che fanno i loro nipoti. E questa è un'attività anche di controllo sociale che può avere, specialmente su internet, una sua utilità. I ragazzi aggiornano i profili scrivendo come hanno passato la giornata, e i nonni li seguono a distanza. Però le passioni web delle persone, appunto, non giovani, non si fermano a Facebook, perché oramai è sempre più diffuso il fatto di persone che controllano in questo modo il conto corrente, che si aggiornano sul meteo, che guardano gli orari dei treni, i siti turistici, eccetera. Quindi una sorta di scoperta del mondo elettronico anche da parte, appunto, di persone che non si immaginavano così ricettive alla novità. Secondo Eurisco, una delle attività preferite di chi ha più di 55 anni e va su internet è l'home banking, cioè, appunto, potersi occupare del proprio conto corrente senza dover per forza recarsi in banca. E la seconda attività preferita sarebbe quella di avere delle informazioni per le vacanze, quindi cercare anche siti, località, agenzie, eccetera. C'è poi anche un utilizzo che viene descritto come superiore alla media di tutti gli altri utenti, ed è quello di gestire i bisogni della vita quotidiana. Quindi una sorta di cercare consulenza, spiegano poi nell'articolo di Longo un modo per operare restandosene a casa, quindi acquistare un biglietto del treno per un parente, cercare un regalo per il compleanno per un altro parente, un amico, cercare informazioni su qualcosa, anche una ricerca scolastica del nipote e così via. Tutto questo sull'Espresso di questa settimana. Allora, visto che abbiamo parlato a lungo di fasce di età, di cosa facciamo su internet secondo quanti anni abbiamo e quindi cosa fa più volentieri ciascuno di noi secondo la sua fascia di età, un'altra cosa su cui ci si sta sensibilizzando, appunto, in ragione delle differenze che intervengono con l'età o che ci possono essere con l'età, è il design. Ne parla in questo numero il mondo che trovate da pochissimo in edicola. Il design for all cosa significa? Significa design per tutti, e vuol dire poter ripensare degli oggetti in modo di adattarli alle esigenze dei consumatori, perché i consumatori, come ben sappiamo, non siamo tutti uguali. Sempre più aziende, spiega infatti il mondo, escono dai progetti standard degli oggetti e cercano di pensare utilizzi adatti ai bambini, agli anziani, alle persone alte, alle persone basse, alle persone con disabilità anche temporanee. E verrebbe da dire, ci sono, forse li avete visti, degli oggetti disegnati apposta per persone mancine piuttosto che per persone non mancine e così via. L'interesse con cui si sta cercando di ripensare gli oggetti anche di uso comune coinvolge un po' tutto: telecomandi, cucine, pomelli e così via. Riferisce sempre il mondo che la Camera di Commercio di Milano un anno fa ha lanciato, insieme a Design for All Italia, che è appunto una delegazione dell'Associazione per il Disegno Industriale, un progetto che era rivolto alle piccole e medie imprese a cui interessasse sviluppare prodotti e servizi conformi, appunto, a questi canoni del Design for All. C'è stato la vittoria di un'azienda che produrrà un corrimano che non c'è. Ripensa, appunto, il concetto del corrimano per poter trasformare questo corrimano in un complemento d'arredo che si mimetizzi più facilmente nell'ambiente. Ma ci sono altre cose che si stanno preparando, stanno per arrivare sul mercato. Ad esempio, c'è un'azienda che produce accessori da uomo e sta mettendo a punto una cravatta con un nodo facilitato, quindi chi è particolarmente annoiato dall'idea di fare il nodo della cravatta potrà avere invece questo nodo facilitato tra poco. Piacerà, dice, anche ai forzati del mezzo Windsor, che però odiano perdere tempo davanti allo specchio. Ma i ripensamenti coinvolgono, vi dicevo, un po' tutto, ad esempio sistemi di cucina che hanno una serie di innovazioni, pensili con cestelli azionabili tramite telecomando e così via, che cercano di tenere conto di tutti gli utenti della cucina, quindi persone più o meno alte o persone più o meno agili, magari per il fatto semplicemente dell'età, e quindi persone più agili chiaramente in età giovanile, persone meno agili quando invece cresce e l'età avanza. Tutto questo, appunto, il Design for All, come viene raccontato da Il Mondo questa settimana. E per chiudere torniamo ancora un istante su Il, mi piace farlo perché è una voce che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono benissimo. Gigi Garanzini firma un bellissimo ricordo, Momenti di Gloria, dedicato al quando il mondo del calcio era ancora quello vero, in cui lo stesso Gigi Garanzini produce appunto una foto in cui lo potete vedere ritratto mentre cerca di spazzare un campo da calcio. In primo piano c'è un giovane novellino, i più diciamo gli ascoltatori, qualche ascoltatore se lo ricorderà, attaccante nel Milan che si sta riscaldando, e appunto i cronisti, tra cui il vostro Gigi Garanzini, che mettono in ordine il campo perché gliel'aveva chiesto Nereo Rocco, che poi pagò questi giornalisti con una sorta di premio partita. Dice: parò Nereo destinò a noi improvvisati spalatori una doppia razione di vin brûlé per scaldarci, e così grazie al nostro sforzo si poté giocare la partita di allenamento e poi tutti a mangiare insieme. Un calcio che non c'è più, naturalmente, il mondo del calcio che era ancora quello vero. Trovate questo ricordo su Il, in vendita con Il Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo qui, Magazine 24 ritorna sabato prossimo. Grazie a Fabio Cantadori anche questa mattina in regia, grazie ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questa trasmissione.